A bordo campo di Dario Ricci. Rigore è quando arbitro fischia, diceva il grande Vujadin Boskov. E allora oggi a bordo campo, proprio a questo grande allenatore che in questi giorni ci ha lasciato ad 82 anni, vogliamo rendere omaggio ripercorrendo la storia del suo gioiello più bello, quella Sampdoria di Vialli e Mancini che nel 90-91 conquistò lo scudetto, ultimo grande miracolo di una provinciale, diciamo così, del nostro calcio, perché poi dell'albo d'oro del campionato si reimpossessarono le big tradizionali. Vogliamo farvi ascoltare questa storia che qualche tempo fa dedicammo a quella Sampdoria, e le gemme, neanche a dirlo, sono proprio le dichiarazioni di Vujadin Boskov al nostro microfono. E allora riviviamola, quell'epopea, nel nome del grande Vuja. Chi guarda Genova fa più che Genova, si vede solo dal mare. Erano tornati a Genova con l'amaro in bocca Gianluca Vialli e Roberto Mancini dopo i mondiali di Italia 90. Avrebbero dovuto essere loro i leader degli azzurri. Invece a far sognare i tifosi italiani erano stati i gol di Schillaci e le prodezze del divincodino Roberto Baggio. Il titolo soprattutto era sfumato ai rigori nella semifinale di Napoli contro l'Argentina di Diego Maradona. A fare festa alla fine però era stata la Germania di Matteus, che all'Olimpico aveva vendicato la sconfitta di 4 anni prima in Messico e lasciato Dieghito in lacrime. Vialli fermato dagli infortuni, Mancini relegato al ruolo di comparsa, i due rientravano in Liguria con la voglia di portare la loro Sampdoria finalmente sulla vetta più alta del calcio italiano. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. I blu cerchiati, tornati in Serie A nella stagione 82-83, già da diversi anni frequentano i piani alti della classifica del campionato. Hanno conquistato 3 Coppe Italia e sono arrivati ad essere protagonisti anche in Europa. La stagione 1988-89 aveva visto svanire la Coppa delle Coppe nella finale di Berna, vinta per 2-0 dal Barcellona. Un ricordo amaro per Pietro Vierkovud, una delle colonne di quella squadra. Io non giocavo, ero squalificato, poi mancavano altri 2-3 giocatori e altri 2-3 non erano al meglio delle condizioni. Cioè, ci presentammo a Berna in situazione non ottimale, la squadra ne risentì parecchio, anche se noi al completo eravamo più forti di loro, però con la mancanza di 3-4 giocatori importanti determinò quella sconfitta. L'anno dopo, per la banda guidata da Vujadin Boskov, la Coppa era arrivata davvero. A firmare il successo ai supplementari nell'ultimo atto a Göteborg, il 9 maggio 1990, 2 prodezze di Vialli. Ma c'è ancora un obiettivo da centrare per sentirsi veramente grandi, lo scudetto. E strade su strade, poi strade, arrivammo a Genova. Avrebbero potuto conquistarlo magari con la maglia di una grande, il tricolore, Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Ma vincerlo in blu cerchiato, con quel gruppo di amici messo insieme da Boskov e da Paolo Mantovani, avrebbe avuto un sapore tutto particolare, come spiegava lo stesso Vialli. Direi che quando un giocatore sceglie una società lo fa per parecchi motivi. Direi che quello che mi lega a Genova è lo spogliatoio, perché ci sono dei ragazzi eccezionali con quali io posso dividere i successi o gli insuccessi. Poi chiaro, c'è un rapporto particolare col presidente, con l'allenatore, col direttore sportivo, e poi direi che stare alla Sampdoria è bello, perché quando succede una volta ogni tanto, purtroppo non troppo spesso, di vincere qualcosa, questa conquista, questa vittoria la senti particolarmente tua, perché le cose tanto più le ottieni con la sofferenza, tanto più sono gradite e ti rendono felice. Una scelta determinata soprattutto dal grande carisma del presidentissimo Mantovani, come racconta Giovanni Tosco, giornalista di Tutto Sport ed esperto conoscitore della Genova del calcio. È un presidente al quale ovviamente ancora tutti sono molto molto legati, una storia particolare. Lui aveva cominciato come addetto stampa nella Sampdoria negli anni 70, poi uscì dalla società per poi rientrare in maniera decisiva quando l'acquistò e quando cominciò quella che è stata l'epoca più brillante nella storia della Samp, per lo scudetto naturalmente, ma anche per le Coppa Italia, per la Coppa delle Coppe e tante soddisfazioni che quella squadra riuscì a regalare ai suoi tifosi. Fu un personaggio particolare, caratteriale, a tratti anche irascibile, quindi non era facilissimo avere a che fare con lui, ma tutto gli fu perdonato proprio perché mise a disposizione tutte le energie per la Sampdoria, naturalmente, e principalmente quelle economiche che consentirono alla Samp non soltanto di portare a Genova tantissimi campioni, ma anche di trattenerli, rifiutando importantissime offerte. Il caso più eclatante fu il mancato trasferimento di Vialli al Milan, addirittura in due tentativi, la prima volta fu Mantovani a dir di no, la seconda fu Vialli a opporre un netto rifiuto. Il gruppo di Boskov del resto era ormai pronto per l'impresa. Pagliuca in porta era una sicurezza. La difesa faceva perno sull'esperienza di Verkovud, che uno scudetto lo aveva già vinto a Roma con la maglia giallorossa. A centrocampo i guizzi di Dossena, la solidità dello sloveno Katanec e la continuità di un altro ex giallorosso, Toninho Cerezo, erano stati completati dall'acquisto dell'ucraino Mikhailichenko dalla Dinamo Kiev. E ad arma forte al duo delle meraviglie in attacco, le scorribande sulla fascia di Attilio Lombardo. Un gruppo unito e compatto intorno ai suoi leader naturali, come sottolinea lo stesso Boskov. Erano responsabili Pietro Virkwood, perché lui era stopper, con un'intelligenza, era Roberto Mancini e Luca Vialli. Perché noi abbiamo avuto un grandissimo portiere, perché questo Pagliuca era così sicuro e mai è preso un gol che dicono guarda come è sbagliato, guarda come è sbagliato lui, mai. Tanto forte è la personalità di questi campioni che subito intorno a quella Samp si moltiplicano le voci che mettono in dubbio l'effettiva capacità di Boskov di guidare lo spogliatoio, un'ipotesi che il tecnico slavo smentisce alla sua maniera. Ma non è, io dico sempre, ho anche letto io questa cosa, squadra faceva Vujadin Boskov e non altro. Unico problema, io quando ho avuto, per esempio, parlare con Vialli come gioca lui, dico Luca, dimmi a te, Luca Vialli si chiama, Luca, che pensi tu, o devi giocare con Roberto Mancini o con un'altra persona? E lui deve mi dire, io voglio giocare con questa o no, voglio continuare con Mancini. Hai capito che vuol dire? Attilio Lombardo giocava sulla fascia destra. Io ho detto, se ti piace Attilio Lombardo, gioca Attilio Lombardo. Se non ti piace, ora cerchiamo un altro preso. Era così. Innegabile tuttavia che il legame profondo che univa il presidente Paolo Mantovani ad alcuni dei suoi pupilli segni la rotta da seguire per arrivare al traguardo più grande. Ancora Giovanni Tosco. Beh, Mancini è stato il primo acquisto, diciamo, fu preso 18enne dal Bologna, quindi sicuramente a Mancini rimase sempre molto molto legato. Forse si è un po' esagerato col discorso del quinto figlio, magari ci fu un po' un'enfatizzazione, come spesso succede quando si crea un fenomeno. Quella Sampdoria era certamente un fenomeno al quale tutti prestavano grande attenzione, non soltanto in Italia ma anche all'estero, perché fu una squadra vincente ma anche una squadra esente dalle polemiche, dalle tensioni. Fu una squadra in cui primari accettavano il loro ruolo proprio perché erano al servizio di grandissimi talenti. Si comportavano questi talenti un po' da principini, certamente, e quindi in qualche caso anche in maniera dispotica, qualche giocatore è stato anche costretto a lasciare la Samp proprio perché non trovava i propri spazi, ma questo era anche una conseguenza, direi quasi inevitabile, della situazione. Detto ciò, certamente il rapporto tra Paolo Mantovani e Roberto Mancini fu un rapporto speciale per tutti gli anni in che Mancini trascorse a Genova e fino appunto alla morte di Paolo Mantovani. Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna, e abbiamo il sole in piazza, la rivolta, il resto è pioggia che ci bagna. L'annata 1990-91 comincia male. La Samp perde la Supercoppa europea contro il Milan e poi viene eliminata dalla Coppa delle Coppe dal Legia Varsavia. ma in campionato la banda di Boskov vola. Al termine del girone d'andata la Samp è terza alla pari di Juventus e Parma, ad un punto dal Milan, secondo, e a due dall'Inter, capolista. Il 3 febbraio del 91 la Samp torna in vetta in condominio con le due milanesi, sconfiggendo 1-0 la Fiorentina. E il 17 febbraio supera 1-0 la Juventus e rimane solitaria al primo posto. Il 5 maggio 1991, quart'ultima giornata di campionato, la Samp fa visita all'Inter, immediata inseguitrice a tre lunghezze di distacco. I Liguri sbancano San Siro con un 2-0 firmato da Dossena e Vialli. Il ricordo di Pietro Vierkovut. La svolta, cioè la certezza più che svolta, la certezza di aver vinto lo scudetto fu quando andammo a Milano a giocare contro l'Inter, che era a tre punti da noi, e vincemmo quella partita 2-0, pur così essendo in difficoltà, perché sull'1-0 per noi l'Inter ebbe un rigore che fu sbagliato e poi riuscimmo in contropiede a fare il 2-0. Da lì in pratica avevamo la certezza che così saremmo riusciti a vincere il tanto sospirato scudetto. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così, che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. 15 giorni dopo, battendo in casa il Lecce per 3-0, i blucerchiati festeggiano aritmeticamente il titolo. La gioia di Vialli, capocannoniere con 19 gol, molti dei quali realizzati grazie ai preziosi assist di Mancini, nel delirio di Marassi in festa. Io sapevo che sarebbe stato difficile vincere, però i presupposti erano quelli buoni. E adesso che abbiamo vinto è un coronamento a un lavoro, dei sacrifici notevoli, a dispetto di quelli che dicevano che per noi qua era tutto semplice, tutto bello e tutto facile. You are red and blue. Non ci basta un blu. Non ci basta un blu. Il trionfo blucerchiato, scherzi degli dei del pallone, oscura i migliori anni della storia moderna del Genoa, che sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, già guida del Verona, campione d'Italia, era tornato ai fasti di un tempo. You are red and blue. Ancora Giovanni Tosco. Ci fu per quasi uno scherzo del destino, perché fu quasi uno scherzo del destino, perché quella è stata la migliore stagione del Genoa nel dopoguerra, un quarto posto, quindi un piazzamento clamoroso, eppure proprio la vittoria della Sampdoria in campionato in qualche modo ridusse l'importanza di quella che per il Genoa era stata un'impresa, così come poi sarebbe accaduto l'anno dopo quando il Genoa arrivò alla semifinale di Coppa UEFA, vinse prima italiana ad Anfield Road, fu poi eliminata dall'Ajax in semifinale, però parallelamente la Sampdoria arrivò alla finale di Champions, persa poi ai supplementari col Barcellona, quindi per uno strano scherzo del destino i due migliori risultati nazionale e internazionale del Genoa sono stati in parte, soltanto in parte naturalmente, oscurati dalla contemporaneità dei successi della Sampdoria di Mantovani. Un anno dopo, il 20 maggio 1992 a Wembley, sarà una punizione dal limite dell'olandese Ronald Koeman a regalare ai tempi supplementari al Barcellona la Coppa dei Campioni e a scrivere la parola fine alla favola di quella Sampdoria, finalista alla sua prima avventura nella Coppa più prestigiosa. La morte di Paolo Mantovani segnò la fine di quel ciclo irripetibile. Lo scudetto, ricordo lontano nei duri anni della Serie B, è ora patrimonio prezioso nella memoria storica di una società tornata ai vertici del calcio italiano. A bordo campo. Tra storia e sport ci muoviamo oggi a bordo campo perché vi vogliamo presentare un convegno di studi che si svolgerà fra poco, il 9 e 10 maggio prossimi a Firenze, ma che rimanda anche un po' a quella che è soprattutto la nostra cultura sportiva. Lo sport alla grande guerra, questo il convegno di studi promosso dalla Società Italiana di Storia dello Sport a Firenze in occasione del centenario della Grande Guerra, il conflitto 1914-18 di cui ricorrono appunto quest'anno i 100 anni e che diventa occasione anche per ripercorrere la storia del nostro sport e le sue interrelazioni con la storia del nostro paese. Allora, nostra ospite, la presidentessa della Società Italiana di Storia dello Sport, Angela Teia. Benvenuta, dottoressa Teia, a bordo campo. Grazie. Allora, dottoressa, perché interrogarsi su questo rapporto tra la Grande Guerra e lo sport in occasione di questo centenario? In Italia si fa un po' fatica a leggere nello sport come un elemento innervante anche la grande storia, quella con la S maiuscola, no? Sì, devo dire che si sono stupiti molti di questo convegno, non soltanto nel nostro ambito sportivo dove appunto si stenta a coltivare una vera e propria conoscenza anche storica, umanistica del fenomeno sportivo, ma anche negli ambienti diciamo universitari, accademici. Noi abbiamo avuto l'onore di essere inseriti nel calendario delle celebrazioni del Comitato delle Commemorazioni, quindi questo è stato veramente un grandissimo riconoscimento che ci ha fatto, devo dire, la stessa Presidenza della Repubblica, in quanto proprio al nostro Presidente io avevo comunicato di questo convegno. Ed è stato così piacevolmente colpito, ha fatto rispondere per l'originalità dell'approccio alla guerra. Ci furono grandissimi campioni infatti del nostro sport che in pochissimi mesi, in quel convulse ore del maggio 1915, quando l'Italia entrò in conflitto ufficialmente, che passarono proprio in poche ore dalle palestre, dai campi di gara alle trincee. Vogliamo ricordarne qualcuno? Sì, certo. Il nostro convegno si svolgerà proprio a sezioni e ce ne sarà una dedicata proprio a questi grandi nomi dello sport del passato, schermidori ma anche atleti, moltissimi calciatori. Avremo anche ospite assieme a noi l'Istituto del Nastro Azzurro, che è l'istituto che raggruppa i familiari dei caduti e dei medagliati al valor militare, il quale istituto sta facendo proprio una ricerca su tutti i calciatori caduti in guerra e che hanno avuto una medaglia al valor militare. E quindi insomma certo, i nomi, Nedonadi, Rajčević, il famoso lottatore triestino che fece di tutto e di più pur di non abbandonare la trincea. C'è stato un momento, soprattutto dopo Caporetto, che si diede ordine di allontanare gli irredentisti dalle fila, eppure Rajčević si fece, come dire, raccomandare e volle restare sul campo per poi assaporare la gioia dell'entrata a Trieste. Tanti campioni, quindi, e ha citato uno di questi, Nedonadi, il grandissimo schermidore. Ebbene, abbiamo chiesto un profilo, un ricordo proprio di Nedonadi al maestro e storico della scherma Giancarlo Toran, che ha ricordato così al nostro microfono chi era Nedonadi e quale ruolo ebbe nello sport italiano e mondiale. È stato ed è un mito, perché Nedonadi, oltre ad essere stato il campionissimo che ormai non so quanti ricordano, vincitore a 19 anni della sua prima Olimpiade e poi dopo l'intervallo della guerra ha vinto 5 medaglie d'oro nella stessa Olimpiade, 5 medaglie su 6 disponibili, record mai più raggiunto nella scherma, e ha resistito per tanti anni in tanti altri sport, ma non paragonabili per quantità di discipline. Comunque Nedonadi è stato un grandissimo schermitore, perché oltre a vincere le Olimpiadi lui è stato considerato quasi imbattibile nelle tre armi per molti anni della sua carriera, prima il commissario tecnico della Federazione Italiana Scherma e poi il presidente della federazione. Ha impostato un lavoro di cui sentiamo ancora gli effetti ai giorni nostri, quindi è stato un vero benedettino del lavoro, soprattutto per la quantità di lavoro che ha fatto. In più c'è da ricordare che, parlando di sport più in generale, lui scriveva specificamente di scherma, ma è stato un giornalista coi fiocchi. È stato un giornalista che ha scritto articoli, dice la moglie, in 5 lingue. Io ne conosco in 3, italiano, francese e spagnolo, ma non dispero di trovare nelle altre lingue. Un giornalista moderno e piacevolissimo da leggere. Quindi campione anche della penna e non solo della scherma, ma Nedonadi fu anche protagonista della Grande Guerra, soldato in trincea. In che modo? Certo, Nedonadi vide interrotta la sua carriera agonistica già brillantemente avviata con le Olimpiadi di Stoccolma, dopodiché quando scoppia la Grande Guerra nel 1915 lui viene chiamato alle armi da sottotenente dei cavalleggeri, il colonnello Rattazzi lo pretende che lui vada nel suo corpo dei cavalleggeri, Alessandria si chiamava questo corpo dei cavalleggeri, e lui si allenerà con Rattazzi, che per questo lo voleva per tirare con lui, tant'è vero che la cosa divertente è che gli fa questo esame per ammetterlo e gli chiede quante zampe ha un cavallo al che Nedonadi risponde 4, dice benissimo, provate, vado a prendere la sciabola e tutto il resto. Quindi lui partecipa alle fasi più difficili e brutali della guerra e viene decorato 2 volte. È stata molto sofferta la sua partecipazione, anche perché, come ricorda Roma Ferra Lascanati, la compagna della sua vita, lui ha portato sempre il rimorso di aver fatto saltare un ponte con sui nemici e di averli visti cadere e morire, e lui, che era molto religioso, pregava tutte le sere e ha faticato a liberarsi da questo grosso macigno che aveva sulla coscienza. C'è un luogo di fatto in cui questo patrimonio di documenti, di fotografie che raccontano la grande parabola di Nedonadi, campione e soldato, sono conservati, vero? Certo che c'è, ed è l'Agorà della Scherma di Bustarsizio, un museo nazionale di scherma che racchiude le memorie della scherma italiana, e soprattutto grazie all'acquisizione dell'archivio di Nedonadi, quindi tutti i suoi documenti, le lettere, le fotografie, è possibile ricostruire la storia della scherma italiana con grande precisione nell'intervallo fra le due guerre, ma anche molto prima, perché gli album del padre sono ricchi di notizie e di ritagli fin dalla fine dell'Ottocento. È un patrimonio inestimabile di notizie che richiederà anni per essere studiato, da cui emerge a tutto tondo una figura, quella di Nadi, che ha veramente dell'eccezionale, dello straordinario. Questo quindi il profilo di Nedonadi, uno dei tanti campionissimi che attraversò la Grande Guerra, ancora insieme con Angela Teia, la presidentessa della Società Italiana di Storia dello Sport. Dottoressa Teia, ecco, ma perché si fa così fatica in Italia a riconoscere il ruolo fondante dello sport come elemento culturale primario della nostra formazione culturale, come Stato, come Paese, come Nazione? Eh sì, c'è molta diffidenza dai vari ambienti, non soltanto da quelli, diciamo, intellettuali, da chi fa cultura, quindi dall'università, purtroppo anche nella scuola l'educazione fisica e sportiva è di molto trascurata rispetto al passato, ma è lo stesso ambiente sportivo che pare non accorgersi dell'importanza della cultura, di questo fenomeno, che è un fenomeno trasversale che attraversa tutta la nostra società, e quindi come fare a non pensare che possa poi determinare, essere parte determinante della sua cultura. Quindi cultura intesa appunto come caratterizzazione identitaria di una nazione, ma anche come conoscenza, conoscere lo sport. Se manca proprio la base, il substrato essenziale della conoscenza, è chiaro che poi ci sono delle carenze culturali infinite, e questo purtroppo è molto evidente nel nostro paese. Beh, insomma, dottoressa Teia, direi che siamo all'inizio di un lungo cammino, c'è tanto lavoro da fare e voi cominciate a farlo nel modo migliore con questo convegno Lo Sport alla Grande Guerra, che si svolgerà a Firenze. Ho l'idea che nel prossimo quadriennio di celebrazioni la ritroveremo spesso a bordo campo. Intanto grazie per essere stata oggi nostra ospite e in bocca al lupo per i lavori fiorentini. Grazie a voi. Anche per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito web radio24.it, dove potete scaricare anche il podcast di questa e di tutte le altre puntate, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna domenica prossima come sempre alle 16.30 e in replica ogni sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.